If you want to say something, you tell me. No, you're on holiday. Okay. Guarda, se tu non hai il denaro per andare alla conferenza, vendi la macchina, vendi tutte le camicie che c'hai, tutto. Veramente. Queste sono tempi molto speciali. Milestones, come si dice in italiano milestones? Pietre? Migliaia, ok. Scusate, io parlo tedesco maggior parte del tempo, con mia moglie inglese, l'italiano si sta migliorando, quindi... No, veramente, vendi quello che hai per pagare la conferenza, ma qualsiasi cosa costa, non mancare, è una cosa molto importante. Mike Pilovacci è una persona che noi conosciamo non molto bene personalmente, ma sappiamo, diciamo, quello che fa in Inghilterra. Mia moglie è inglese, quindi... Abbiamo un bel po' a che fare con quello che succede in Inghilterra, veramente il padre di una rivoluzione al momento in Inghilterra, quindi sì, vi influenzerà molto. Non so come l'avete fatta, l'avete mandata alla mafia, che avete fatto per così che... In Austria noi stiamo cercando di invitarla, ma non viene da noi, quindi siete speciali ovviamente, eh? È vero, siete speciali? Sì! Yeah. Oh, ok... Siete una chiesa molto coraggiosa, devo dire, che invitate a me a venire, rivenire, a predicare, quindi avrei bisogno del batterista. Dov'è il batterista? Come si chiama il batterista? Christian, dove stai? Vieni, vieni, vieni. Devi andare alla batteria perché avevo bisogno di te fra un minuto. Ciao Christian. Sì, grazie per l'invito, grazie per poter condividere qui con voi. Devo dire che mi piace venire qua per me stesso, perché poi già l'adorazione, qui la band, la musica, il vostro, come si dice, welcome, benvenuto, è così rinfrescante, quindi con questo sole il posto migliore da essere è qui a Modugno. Ok, io penso spero di portare una parola che vi incoraggia e che vi dia forza per andare avanti. Sapete, mentre sì, aspetto non te ne andare, mentre eravamo lì a adorare Dio, ho sentito che il Signore dice a voi come Chiesa che la parola più importante per voi, la frase più importante per voi da ora, nei prossimi anni, è la parola fedeltà. Fedeltà. Il Signore veramente, io credo che il Signore vuole dirvi a molti di voi, state dove siete, diciamo, crescete, radunatevi, fate ogni volta la stessa cosa, diciamo, non cercate di, non so, di fuggire, di siate fedeli, è una cosa molto importante, che Dio sta facendo qualcosa dentro di voi che va al di là della vostra comprensione, e al di là di quello che è stato scritto nella storia di questa zona qui, della Puglia, anche dell'Italia anche, è qualcosa che è nuovo, che non dovreste cercare di pensare che cosa sarebbe, perché è nuovo, è qualcosa che è al di là di quello che voi avete mai visto e che voi forse sognate. È una cosa bella, ma è una cosa molto seria, una cosa che influenzerà la vostra società. E il Signore mi ha detto oggi che quello che succederà tramite questa Chiesa influenzerà anche non soltanto questa parte dell'Italia a livello sociale, ma anche a livello politico, a livello del pensiero, di come pensa la gente sulla vita, sull'umanità, ma anche influenzerà questa parte dell'Italia a livello economico. A livello economico. Non so come succederà, ma penso il Signore vuole dire a voi, avete più peso di quello che pensate. Il Signore vuole che voi date a quello che sta facendo in voi e in questa Chiesa il peso giusto, che non pensate stiamo avendo un bel tempo qui, cantiamo delle belle canzoni, andiamo a casa, la nostra vita è bella col Signore, ma è molto di più. Se voi potreste leggere i libri della storia fra 30, 40, 50 anni, leggereste qualcosa su di voi del movimento che iniziò in un piccolo paese nella Puglia, che ha influenzato tutta l'Italia, ma anche, come avete sentito, non è sbagliato, non è soltanto un sogno, ma anche molte parti dell'Europa. Però non aspettiamo fra 30 anni, perché alcuni di noi non ci sono forse qui fra 30 anni, molti di voi sì, però voglio dire, cominciamo ora a dare peso a quello che il Signore fa tramite dentro di noi e in questa chiesa qui, non pensare soltanto che è bello, ma è al di là di questo. È qualcosa di molto, molto, molto importante. E un giorno saprete perché quello che fate, quello che Dio fa dentro di voi è molto importante, lo saprete un giorno. Ma Dio vuole che lo sapete ora, perché è importante per le tue decisioni. C'è gente qui che ha offerta di lavoro per spostarsi e tu guadagnerai di più se vai in un'altra città. E Dio dice non farlo. Sotto altre circostanze sarebbe buono farlo, ma Dio dice rimani fedele, sei qui, rinuncia ai qualche euro di più, rimani qui. Non è una cosa normale, perché io dico alla gente, specialmente in questi giorni dove la gente non ha un buon lavoro molto spesso, non ha abbastanza denaro per vivere, ora viene qui questo qua dall'Austria e ci dice ci sono alcuni di voi che devono rifiutare offerte migliori per prendere l'offerta del Signore qui in questo posto. Io non mi azzarderei a farlo perché non è giusto, come leader non possiamo dire rimani qui, non te ne andare, non lo farei mai, non teniamo la gente, rilasciamo la gente. Ma sento che il Signore sta facendo qualcosa di molto importante qui che ne vale la pena per alcuni di voi dire no, non mi muovo, non me ne vado, rimango qui, non corro. Voglio incoraggiarvi veramente, non soltanto a sapere che è una bella cosa essere parte di questa chiesa, ma è una cosa molto, molto importante. E non per voi soltanto, e non perché molta gente sarà salvata e entrerà nel regno di Dio, ma anche perché Lui farà un lavoro di trasformazione della società tramite alcuni di voi sono molto, molto importanti per quello che Lui vuole fare nella società, nel mondo non cristiano. E come diceva mia moglie stamattina a Bari, vuole che voi invadete il mondo di altra gente. Dio non soltanto porterà gente nel suo mondo, nel suo regno, Lui porterà voi nel mondo dell'altra gente e porterete il regno di Dio lì. Amen? Amen. Ora predico. Ok. Allora, io ora darò il titolo della mia predica, E quando dico il titolo di quello che predico, voglio che quando lo annuncio, lo faremo con la batteria, con brrr, come si chiama in italiano? Il rullo, frullante. Aspetta. Io mi sento bene in Puglia, posso predicare alla pugliese, no? Quando devo stare a te non devo dire Dora, devo dire cosa, non si dice cosa, cioè. Quando dico il titolo... No, col rullante. Quando ho detto il titolo, appena l'ho detto, voglio che tutti voi vi alzate in piedi e gridate, applaudite, fate wow, ok? Ok, veramente, quando dico io predicherò su e lo dico, voi wow, ok? Dovete proprio saltare. Siete pronti? Pronti? Sì! Vai. Allora, vai. Signore e signore, questa sera io predicherò sui problemi e le difficoltà. Wow! Grazie. Ma mi avete sentito a me? Questa sera io predicherò sui problemi e le difficoltà e le prove. Ok, Giacomo capitolo 1 dal verso 2 dice questo: fratelli e sorelle, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento, spinta qua e là, un tale uomo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, la ragione per la quale io vi ho chiesto di gridare, di applaudire, di gioire, perché qui dice, considerate una grande gioia. È una cosa quasi non umana dire questo. Considerate una grande gioia quando avete, vi trovate in prove svariate. Sapete, questa parola qua, prove, non è soltanto, non è, alcune Bibbie lo chiamano tentazione. Uno può pensare la tentazione, diciamo, del diavolo, del peccato. Ma quello che questa parola vuol dire non è soltanto questa, ma sono difficoltà nella vita, sono problemi e difficoltà. E in quel tempo, quando la Bibbia fu scritta, le prove e le difficoltà erano viste come una prova, anche in italiano, infatti la parola è migliore di in altre lingue. Le prove, quando uno dice, fratello, sono provato, non è soltanto dal diavolo, ma sono provato dalla vita stessa, dalle difficoltà. E questo è quello che Giacomo dice, quando avete difficoltà, quando avete problemi e difficoltà e prove, considerate una grande gioia. In altre parole, nei prossimi giorni, tu riceverai una telefonata da qualcuno della chiesa qui, del Pieno Evangelo, dice, ragazzi, venite, venite. Ho ordinato le pizze, mia madre ha fatto una torta, e abbiamo un sacco di bibite qui, facciamo una festa. E tu dici, ma chi ha il compleanno? Nessuno. E perché facciamo la festa? Dobbiamo fare la festa perché io ho un sacco di prove, un sacco di problemi, dobbiamo festeggiare. Voi ridete, ma quello che Giacomo dice è esattamente questo. Quando avete problemi, difficoltà, fate una festa. Nell'originale greco la parola che sa è kara significa, questa considerata la gioia, questa gioia significa allegria. Yeah? Siate allegri, oppure significa anche delizia che tu vuoi godere in pace. Sai quando qualcuno ti manda la cioccolata che ti piace e tu chiudi la stanza, chiudi la porta, e chiudi gli occhi e mordi in questa cioccolata. O non so, qualche altra cosa che a te piace. E questo che vuol dire? Quando voi avete delle prove, delle difficoltà, dovete fare esattamente questo, dire, fammela godere questa prova qua. Perché io predico su questo? Perché io odio quando la gente, specialmente i cristiani, diventano vittime. Non lasciare nemmeno un minuto nella tua vita che tu ti vedi come una vittima. Sapete che Gesù si è offerto, ma non era mai una vittima. Infatti quando portava la croce e le persone piangevano, e lui, Gesù, guardate alle donne, ha detto non piangete per me, smettetela, io non ho bisogno che vi sentite male per me. Don't feel sorry for me, feel sorry for yourself. Piangete per voi stessi. Lui dice, io non sono una vittima, nessuno. Lui infatti ha detto, nessuno mi prende la vita mia, io la do. Capito? Perché Dio vuole che anche se noi abbiamo prove, difficoltà nella nostra vita, che non diventiamo mai vittima di qualcuno. E molto spesso le difficoltà sono cose che ci rendono vittime, a meno che noi non sappiamo quello che dobbiamo fare dentro le difficoltà. Come chiesa, ma anche come individui. Un'altra parola è estrema gioia. Abbiate estrema gioia quando vi trovate in difficoltà. Ma perché dobbiamo gioire? Beh, è scritto qua, sapendo che la prova o le difficoltà, i tempi difficili, che prova la vostra fede, produce costanza, che significa pazienza, in altre traduzioni dico produce pazienza. Queste difficoltà producono pazienza dentro di voi. Sapete che io non ho mai sentito che qualcuno ha detto Gianni, io ho un sacco di problemi perché ho troppa pazienza. Hai mai sentito una cosa del genere? Mai sentito? Normalmente abbiamo problemi perché siamo stati impazienti, si dice. Siamo stati impazienti. C'è abbastanza esempi nella Bibbia di gente impaziente, come Abramo, per esempio. Un grande errore, solo per impazienza, per non poter aspettare. Quindi la prova, la difficoltà produce in noi pazienza. È scritto poi che la pazienza, la costanza, compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, nulla mancanti. Un'altra traduzione dice che siate perfetti e sani. E sani. Sapete che molto spesso le difficoltà che avvengono nella nostra vita, le prove, le difficoltà, i tempi difficili, anche quando noi li abbiamo attraversati, c'è gente che non rimane sana. Tanti anni fa, io stavo suonando in una tenda di evangelizzazione a Potenza. Potenza. Ero sulla piattaforma e la batteria, come sempre, è dietro. No? Come questa batteria. E io avevo il sedile là e stavo suonando. E mentre suonavamo, il sedile si è spostato all'indietro, stavo quasi sparendo dietro la tenda là. E ho detto, ma che è successo? Ok, ho continuato a suonare. E dopo una mezz'oretta, la tenda si è riempita di gente. E io ho pensato, oh, è venuto il risveglio. No? Noi preghiamo, Dio manda la gente, sono venuti, no? Ma poi è una cosa molto, molto tragica, c'era appena stato il terremoto a Potenza, e noi eravamo in questa piazza e la gente è scappata dagli appartamenti, dalle case, sono entrati nella tenda. Non era il risveglio. Che risveglio. Comunque, quello che è successo, perché eravamo alcune settimane in quella tenda, abbiamo saputo che c'era gente che volevano ritornare nei loro appartamenti, nelle loro case, dopo alcuni giorni, ma gli è stato rifiutato, hanno detto non potete ritornare perché questa casa è troppo lesionata, non è vivibile. E ci sono delle difficoltà nella vita, dei tempi difficili nella nostra vita, se il Signore non ci aiuta, perciò ci dice cosa fare quando abbiamo difficoltà, se Lui non ci aiuta, la nostra vita non è più vivibile. È così lesionata, è così distrutta, che anche gli amici nostri dicono, ma con quella non si può più stare. Oh, essere amico suo. E tu stesso dici, ma no, la vita non... Che è successo con me? Perciò è molto importante che noi sappiamo cosa fare in tempi difficili. Chi di voi non ha mai avuto difficoltà nella sua vita? Oh, io ho centrato oggi, la predica centra tutti, colpisce tutti. Affinché siate sani alla fine di queste difficoltà. Sapete che nelle difficoltà impariamo cose molto, molto importanti. Per esempio, è scritto nel libro degli Ebrei, capitolo 5, Ebrei capitolo 5, verso 7, dice questo. Ebrei 5, verso 7, dice questo. Nei giorni della sua vita terrena, parla di Gesù, Gesù offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo dalla morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Sentite questo, pur essendo figlio di Dio, imparò, diciamo insieme, imparò. Imparò. Di nuovo, imparò. Imparò. Il figlio di Dio imparò l'ubbidienza. Come l'ha imparata l'ubbidienza? Da ciò che patì, o da quello che lui ha sofferto. Sapete, quando Gesù è venuto sulla terra, doveva avere degli arnesi per la sua missione. E uno degli arnesi che Gesù aveva bisogno, e dico questo, che ognuno di noi ha bisogno per avere successo nella vita, è questo, l'ubbidienza. L'ubbidienza. Sì, i bambini devono imparare a ubbidire, no? No, sto parlando di noi. Di noi, gente già cresciuta, eccetera, eccetera. l'ubbidienza. Gesù sapeva, se io non ho l'ubbidienza con me come arnese, come tool, fallirò nella mia missione. E come ha imparato Gesù l'ubbidienza? Tramite le cose che ha patito, sofferto. Gesù, insegnami a essere ubbidiente. Dice, sei pronto? Sei pronto? No, ma io la voglio imparare così. Sentendo una predica, Gesù dice, sì, la predica è soltanto l'annuncio. L'ubbidienza la impari quando la devi fare. Ah sì? Eh sì. Ubbidienza è bisogno nel momento quando tu non vuoi fare qualcosa e la fai lo stesso. Perché il resto non è ubbidienza. No, non so che cos'è. Ubbidienza è quando tu fai qualcosa che normalmente non è nemmeno qualcosa che tu faresti naturalmente. Gesù non voleva morire, lo sapete questo? Gesù non era pazzo. Non era stanco di vivere. Infatti una volta ha detto al padre... C'è un altro piano anche. E il padre ha detto, no, non c'è. Ma ti faccio vedere che succederà se tu vai alla morte. Ha fatto vedere a te, a me, no? E poi Gesù ha detto, no, dimentica. La tua volontà sia fatta, non la mia. Capito? Non c'è un altro piano. Ma l'ubbidienza è molto, molto importante. È un arnese, qualcosa che abbiamo bisogno nella nostra vita per avere successo. E molto spesso non so nemmeno perché è così. Dio dice, è così. Se hai fede, succede qualcosa. Se ubbidisci, se hai ubbidienza, succedono cose che non succederebbero se non ubbidisci. Perciò io penso anche, quando noi abbiamo figli, bambini, li insegniamo a essere ubbidienti, non è perché noi vogliamo avere la pace, non è perché vogliamo che loro sono bravi soltanto, ma li posizioniamo alla benedizione nella loro vita. Ubbidienza a chi? Ubbidienza a Dio. Anche ubbidienza alle autorità della Chiesa, gente che è cresciuta, che sa pensare, gente intelligente che dice no, io sono ubbidiente, io farò esattamente quello che i leadership dicono, perché vogliamo essere anche ubbidienti, come la Bibbia dice, ai leader della Chiesa. Romani capitolo 16, Romani 16, dice Paolo questo a questa chiesa a Roma, dice: la fama della vostra ubbidienza ha raggiunto tutti, tutti ne parlano come siete ubbidienti. Mentre dunque mi rallegro di voi, voglio che siate saggi nel bene e immuni dal male, il Dio della pace schiaccerà ben presto Satana sotto i vostri piedi. Perché? Perché se dove c'è ubbidienza, c'è potenza. Paolo dice, è sicuro che succederà. Schiaccerà Satana sotto i vostri piedi. La vostra ubbidienza, Paolo parlava a una chiesa, e diceva, la vostra ubbidienza a cosa? A noi apostoli, a Dio, ma a noi apostoli anche. E tutti ne parlano. E io vi dico una cosa, voi vincerete sopra Satana. Perché l'ubbidienza è potenza. Anni fa, mia moglie e io siamo andati in Austria. Il primo posto dove abbiamo abitato era in una città che si chiama Villach. Là abbiamo aiutato una coppia missionaria per un anno circa, poi ci siamo spostati altrove, abbiamo iniziato a fondare chiese al centro dell'Austria e altri posti, e poi abbiamo fondato una chiesa in una città che era vicina a dove abbiamo iniziato. Questa chiesa ha cominciato a crescere nel posto che si chiama Klagenfurt, cresceva, e poi la gente che si è convertita dal primo posto dove siamo stati, dove c'erano altri missionari anche mandati dalla stessa missione nostra in quella città, da quella città sono venuti gente alla chiesa nostra a Klagenfurt. E hanno cominciato a dire, e quando fondiamo una chiesa da noi a Villach? Io pensavo, ma c'è l'altro missionario, c'è già la chiesa a Villach, mica possiamo fondare la chiesa là, no? Ma queste persone diventarono sempre di più e volevano che fondavamo una chiesa là. E un giorno abbiamo cominciato a fondare una chiesa a Villach, dove c'era anche un altro missionario della stessa missione dove vengo io, dall'Inghilterra. Dopo alcuni mesi abbiamo ricevuto una lettera dai direttori della missione. Gianni, abbiamo sentito che tu hai cominciato a fondare una chiesa nel posto dove già stiamo fondando una chiesa, perché fai questo? E il missionario lì ha mandato una lettera e lui non è contento. Quindi ti chiediamo di smettere di fare questo e basta. E io ho letto la lettera e ho detto, ma com'è? Dio ci ha detto di fondare la chiesa a Villach e l'uomo ci vuole fermare. La prima cosa in me era, no, se Dio ha parlato non mi interessa quello che dice la gente, lo facciamo lo stesso. Io ho scritto la lettera esattamente in queste parole, no? No, Dio ci ha detto di farlo e dobbiamo ubbidire più a Dio che all'uomo, no? Dalla Bibbia. Allora, abbiamo ricevuto una lettera, abbiamo mandato un'altra lettera, eccetera, eccetera. Poi uno dei direttori della missione ha detto, devo venire a trovarvi in Austria. È venuto in Austria, ci siamo incontrati. E mentre io e mia moglie andavamo a questo incontro, un amico mio mi ha telefonato e ha detto, Gianni, guarda, ma che ti costa dire sì? Ok, ti tiri indietro da questo posto, non ti costa niente. E io dicevo, ma sì, ma Dio ce l'ha detto, è da Dio, tutti i segni sono lì, stanno già crescendo il gruppo, perché no? Come possono fermarci? Non mi interessa niente che ci finanziano, io credo in Dio, tutte queste cose qua. Parole che erano sempre suonavano molto belle. Qualcuno forse avrebbe anche detto, sì Gianni, questa è pura fede, no? Ma questo amico, mentre mi parlava, io sentivo che Dio mi diceva, ascoltalo. E alla fine della conversazione ho guardato mia moglie, ho detto, sai Angela, quando incontriamo John, noi gli diremo, John, hai ragione, scusateci, non era una cosa molto saggia fare questo senza parlare con voi, eccetera, eccetera, ci tiriamo indietro. Perché là erano già così arrabbiati con noi, volevano buttarci fuori dalla missione, smettere di pagare, no? Pagare noi, di missioni, diciamo, di sponsorizzarsi. Quindi ci siamo incontrati con John. E prima che John diceva qualcosa, c'aveva una lettera in mano, John l'aveva messo sul tavolo. Io sapevo che la lettera forse della, come si dice, adios. E ho detto, John, volevo dire qualcosa, prima che dici, che parli tu, volevo dire, mi dispiace, perdonami, farò quello che dite voi. Ci ritiriamo da Villach, dove stiamo fondando la chiesa, e sì, lo facciamo. Penso, sì, è la cosa giusta da fare. Non siamo contenti di farlo, ma lo facciamo lo stesso perché vogliamo essere sottomessi a voi, che siete leader su di noi. E John ha cominciato a piangere. E ha detto, Gianni, sai, i direttori volevano mandarvi questa lettera per farvi dimettere, per buttarvi fuori dalla missione. Io ho detto a loro, no, fammela portare, io la porto a loro. Forse li posso convincere a fare un'altra cosa. E quindi tu ora stai dicendo questo, ha preso la lettera, l'ha strappata, ci siamo abbracciati e poi ha detto, sai Gianni, facciamo una cosa, se mai tu togli il nome tuo da tutto quello che scrivete, dalla pubblicità, togli il nome, ma puoi andare lo stesso, no? Facciamo così, un po' all'italiana diciamo, no? Anche se era uno del Belgio, forse il Belgio è peggio anche. Oh. Comunque, fatta la lunga storia, che è già lunga abbastanza, più corta, questa gente qui che si erano adirati con noi, che abbiamo fatto queste cose qua, sono diventati i nostri migliori amici, ci hanno sponsorizzato sempre di più. Alla fine siamo potuti andare a Villach a fondare la chiesa. Infatti Villach è una delle chiese più grandi di tutto il nostro network, ora che abbiamo fondato, e siamo stati benedetti da Dio. Un applauso, vero? Sentite, ci sono momenti dove tu pensi di aver ragione, dove tu pensi che Dio ti ha detto qualcosa, eppure la gente che è con te o su di te dice, guarda, questo è il mio pensiero. Non è il momento di dire, no, ma io ho ragione. Quando tu sei ubbidiente, Dio comincia a lavorare per te. E anche se certe volte tu pensi, l'uomo non ha ragione, quello che stanno dicendo non è giusto, perché Dio... Sapete, la volontà di Dio sarà sempre compiuta nella vostra vita. Non perderai mai. Se tu sei ubbidiente, non perderai mai, ma vincerai sempre, perché tu dai la possibilità a Dio di fare qualcosa nella tua vita. Ah, ok, devo... 25 secondi, in 25 secondi di qualcosa. Sapete, le difficoltà provano anche quello che noi crediamo, ed è molto importante. Sapete che è bello confessare quello che cantiamo, è bellissimo, Ma ci sono a volte situazioni nella nostra vita che provano, vogliono mostrarci se quello che diciamo è veramente così. Ed è molto importante questo, non è vero? Perché non vogliamo avere fake faith, eh? Non vogliamo avere una fede che non è vera, no? Perché quando, in effetti, quando abbiamo bisogno di fede, se non hai la fede vera, vera non funziona, no? Ricordo una volta mia moglie Angela, che qui stava molto male, molto molto male, stava diventando sempre più debole. E un giorno abbiamo chiamato un dottore, un medico è venuto a casa, lui ha detto portatela all'ospedale perché penso che è pericoloso questa situazione, l'hanno portata all'ospedale e mentre all'ospedale i dottori hanno detto signor Gaeta, se avesse portato sua moglie un giorno più tardi sarebbe potuto morire. Hanno scoperto che aveva una crescita, non so come si dice in italiano, comunque dentro la gola qui una crescita. E hanno detto questa crescita crea un disturbo in tutto il corpo che lei perde, diciamo vomita tutto, non può tenere niente, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo operarla. Io ho detto ma che è sta crescita? Ha detto uno dei dottori era un amico nostro e ha detto Gianni a dire la verità dobbiamo operare, non sappiamo che cos'è, può essere benigno o maligno. Io ho detto che vuol dire maligno? Sì, può essere un tumore, maligno. Io quando ho sentito questo ho detto, ah, ok. Ha detto, ma Gianni non vale la pena che rimani qui, vai a casa, la opereremo subito, appena so il risultato, perché io sono quello che fa la diagnosi di questa crescita che taglieremo, ti dico che cos'è. Vai a casa. Sono andato a casa, mi sono messo nella vasca da bagno perché ero così nervoso. Avevamo 3 bambini piccoli a casa. Stavamo per comprare la casa dove abitiamo ora noi. Mi sono messo nella vasca da bagno e ho cominciato a pensare la vita, come sarà la vita senza mia moglie? E cosa farò? Allevrerei 3 bambini da solo? Stiamo comprando la casa? E per che cosa? Per niente. E quindi stavo proprio affondando in questa negatività. E di colpo è come se Dio mi ha svegliato e ha detto Gianni, ma che stai facendo? What are you doing? E io ho detto, che sto facendo? Ma che stai pensando? Come tu dici un uomo di fede, predichi la fede. E hai predicato quando abbiamo bisogno di fede, quando è difficile, dobbiamo confessare la parola di Dio, dire quello che dice Dio, non dire quello che la situazione dice. E tu ora che stai facendo? Già ti stai preparando a vivere la vita senza tua moglie. E veramente ero così scosso in quel momento a notare dove era la mia fede. Ci sono difficoltà che ti mostrano quello che tu veramente credi. E non è perché Dio vuole svergognarci, vuole mostrarci che non siamo. No, vuole che la vera fede è dentro di noi. Vuole che quello che sperimentiamo, le difficoltà, ci mostrano se veramente crediamo in quello che diciamo che crediamo. Gesù venne a risuscitare Lazzaro, Maria esce, se non sbaglio era Maria che esce a parlare con Gesù e Gesù dice, tuo fratello risusciterà. E lei dice, sì, lo so, negli ultimi giorni, nel giorno della resurrezione. Gesù dice, no, io sono la resurrezione, io sono la vita, e tuo fratello risusciterà. In altre parole, al momento quando lei aveva bisogno di credere questo, Gesù disse, credi tu questo? E lei disse, sì, io credo, ma ha detto una risposta che non era giusta. E molto spesso le difficoltà ci portano al punto dove noi crediamo, dove noi vediamo quello che crediamo veramente. Quindi dobbiamo gioire quando siamo in mezzo alle difficoltà, per questa difficoltà, questa prova mostrerà quello che abbiamo dentro di noi. Quindi cosa facciamo nelle difficoltà? Non guardare alle cause della difficoltà, non guardare lì perché il punto è sbagliato. Guarda Dio e guarda te. Guarda Dio e guarda te. Non guardare alla zia Maria, a zio Giuseppe, al padrone che ti ha buttato fuori dalla ditta, non guardare agli amici che ti hanno tradito, perché non ha niente a che fare con qualsiasi cosa. Ha tutto a che fare con quello che Dio sta facendo e quello che sta avvenendo in te. Non è mai importante quello che viene fatto a te, importante è quello che avviene in te. in te. Amen. Alziamoci in piedi, per favore. Io voglio parlare specialmente con la gente ora che è schiacciata sotto il peso delle difficoltà. Quindi non voglio soltanto stasera parlare a tutti noi, così ci posizioniamo bene davanti alle difficoltà e non vediamo la gente cattiva, tutti gli altri, ma guardiamo a Dio, a noi stessi, quello che sta facendo dentro di noi. Ma sto parlando anche a gente che ora è schiacciato dal peso delle difficoltà. Chi è qui che dice: Gianni, io ora mi sento schiacciato veramente dal peso delle difficoltà? Alza la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, preghiamo. Io voglio pregare per voi ora. Non dovete venire avanti, voglio pregare solo per voi. Mettete la mano destra sul cuore sinistro, così. Qua. Spirito Santo, io ti chiedo che tu vieni, che fai un cambiamento di pensiero. Tu hai detto che se noi siamo trasformati in quello che pensiamo, se noi pensiamo in una maniera diversa, saremo trasformati anche tramite il rinnovamento della nostra mente. Io ti chiedo, Signore, che in questo momento la gente, le persone qui che sono schiacciate sotto il peso delle difficoltà avranno un rinnovamento della loro mente verso le difficoltà, che veramente nei prossimi giorni faranno una piccola festa con gli amici loro e diranno: io voglio invitarvi perché io ho delle difficoltà e voglio cominciare a gioire sulle cose che Dio farà in me in mezzo a queste difficoltà. Signore, io ti chiedo veramente un cambiamento di pensiero anche come Chiesa, che noi non saremo gente che vogliono scappare dalle difficoltà, ma che noi diremo: venga quello che deve venire, perché qualsiasi cosa succede sarà per il mio bene, mi farà diventare una persona grande, più grande ancora, allargherà il mio cuore e la mia vista della vita e mi farà una donna o un uomo forte, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Woo. Thank you.